Angola. È sparito, non ti preoccupare. Sparito, sparito. Ehi. Aspetta un secondo che vado a cambiare il microfono. Due minuti. Cambiate, cambiate. Io sono Tirchio e quindi occhio. Cosa sei, Tirchio? Aspetta un attimino, ti paghiamo una cosa, Gazzi, dove e capire. Basta con gli starnuti, che muore. A me mi si è acceso anche il compressore adesso, boh, tocca uscire fuori a ucciderlo. Come? Sono Tirchio. Quanto è 9:10? Non ci arrivi. E allora butta via la radio. 9:20 dB acquista questo amplificatore. Io ti faccio una foto perché tu non ci credi. E non sono attenuato, eh? No, non me ne fare, ci credo, però c'è da fare qualcosa. Perché se tu lo guardi con 4,50 prendo aumento di 20 dB. Sì, no, ma lascia perdere, capi? Lo so. Non lo so perché è così questa radio. Però segnali forti, cioè con 4 kW arriva a 9,25, ti ho detto tutto, eh. Lo vedi allora la radio. Lo vedi dalla radio. Guarda se cambia da così a da 7 a 9, anzi da 9 a 7. E allora sono 7, sono 20 dB, ho ragione. Hai ragione sì. Però senza niente arrivi 7. Come mai arrivavo a 9 prima? Non lo so, neanche io. Vuol dire che mi sta... Cioè, arrivo più forte senza amplificatore attaccato che con l'amplificatore attaccato con tutti gli aggeggi, queste cose qua. Impossibile. Do una accordatina, vabbè. Riesce a vedere. Accordandomi, riesce a vedere. Comunque la radio è satura? Ma che satura, che va benissimo. Cosa satura? Aspetta che mi sta cadendo la colonnina. Adesso mi ha preso la maglia della pulizia anche a me, perché mentre stavi spolverando. Oh, santa pazienza. Ti cavi in 20, oh caspita. C'ho un piumino che è lungo... Aspetta, lo misuro. 90 centimetri. No, 40 centimetri, e prende proprio tutto, glielo infilo nella radio, tra una radio e l'altra, capito? Cos'è? Tipo quell'affare per lavare i boccioni? Ma è largo, quindi va bene per tutto. Con la passata faccio tutto, anche il tavolo. Tipo l'otto lavaggio delle macchine. Sì, tu non ci credi. Adesso sto facendo i microfoni, ne prendo tre assieme. Tu ridi, ma è così. Quello è un affatto, ma lo trovaggio allora. Ma vuoi che ti faccio una fotografia? Tu non ci credi, ma è così, questo qua, è travando. È una parrucca come si dice, di quelle brasiliane. ciucucciù. Vabbè Antone, com'è? Mi cupi? Sì, a voglia ti accoppio. A me accoppi? Aia. A voglia. Dammi un segnale di fumo, quant'è? 9:15. Come faccio ad arrivare 9:15 da Pomponi e tu mi copi il segnale 9? Porca miseria, butta via quella radio. Allora mia, incolorimi. No, a un certo punto. 9:15 sei qua, e poi di quello che vuoi a un certo punto. Sì, ma Antonio sta dicendo a me buttarci la radio, hai capito? Notte. Se io attacco il 4:50 arrivi a manettone. Antonè, sto dicendo a Tino, non a te, che lui c'ha una radio troppo avara. Ah, ho capito, vabbè, scusa. Guardati la fotografia che ti ho mandato, tu non ci credi il mio scovolino, guarda. Sì. Questa è roba professionale. Ma se ce l'ho detto, una passata, faccio un spettacolo. Questo fa bene anche la schiena. Sì, è deluso, perché tu entri tra una roba e l'altra, detto sì, hai fatto tutto. Mi sa domani entro a pulire il vapor qua dentro. E ti dirò che sono anche geloso di questo polverino. Mia moglie me lo ruba sempre, ma io adesso lo nascondo. Lo nascondo e lui non lo trova. Io mi lascio perdere queste cose, perché io le rubo sempre i pennelli nuovi dei trucchi, e se mi rivede, se mi rivede mi spacca la testa. Ho i pennelli quelli che assetto alla fine per i capelli, sembrano capelli questi pennelli, no? E li rubo. Mi dice, ma i pennelli il cane te li ha presi. Poi vedi il cane con questo pezzo di osso in bocca, quello è il manico. Bravo. Con il gelato delle MC60 in bocca e gli ha dato lì, vai a giocare tutto. Vai Antonio, riprendi. Vabbè, Antonio è morto. Vai ti. Bravo, non sei neanche gonfiato. È esploso. Sì, guarda, adesso non so, bisogna guardare la ricezione di questa radio. Però se da te arriva, da un po' ne arrivo 9:15, da te arrivo 9, allora sei peggio di Antonello, Sì, ma io ti posso dire una cosa, Antonello adesso stava parlando, siccome Antonello arriva più alto, perlomeno Antonello, tu stavi sovramodulando a Calvino. Sì, ciao, buonasera. Ha bruciato i finali. Cosa è combinato Antonello? Santiago 7, radio bassissima. Sto usando un catamarano, sto usando una verità, lo sto provando, quindi so che non esco a un certo punto. Antonello, la radio è bassissima, sia un segnale di 7 e... Non capisco cosa dici, ma perché non ti secchi le mani? Sì, così Asa, che l'altra volta abbiamo fatto. Sì, aspetta un secondo che cambio apparecchio. 2 minuti, cambio. Male male. Se invece ti avessi tagliato le dita col coltello invece di toccare il mic. Ma così mi ha tempo perso. Col coltello, con la lama, quella seghettata, in modo che non soffri. No, infatti. Vero. Sì. Sto facendo i buchi in quei tubi, capì, no? Per una prolunga, un'eventuale prolunga, te l'ho detto, per la bicicletta. Ah? No, cosa mi sono tagliato le dita? No. Il fatto sta che nel bucare quei tubi, che sono quei tubi che ti ho fatto vedere io, che quelli zingati pesanti, ci ha messo un po', però li ha bucati bene. Oh, l'acciaio è fuori di testa, No, ma l'hai fatto a tubi zingati questo. Non ho acciaio, mi va bene, tanto non si vede. No, aiuca, porca miseria. Allora, diciamo la verità, che con i tubi in acciaio sarebbe stato più performante, no, più leggero, più tutto. È che non ne avevo, quindi per poter fare una cosa del genere ho dovuto soffrire di quello, di quello che avevo. Quanto li ha fatti lunghi questi tubi? Quanto sono lunghi? 55. A 55 non ci arrivo, però se me l'avessi detto, se l'avevo dato io 2 pezzi da 40 cm di tubo in acciaio, anche di quello fine. Ma non basta, non va bene, quella proporzione, se evita quella, non proporzione, quella misura che di quei tubi là va benissimo, perché se dovessi mettere peso bisogna un po' di consistenza, quindi tubo d'acciaio bucato con un bullone e dado da 12 credo, sì da 12 credo che sia, per la misura di 55, poi ci va il pezzo sopra la rampa, praticamente era che va appoggiata e poi la tassello, capito? Quindi fa la bandiera, mi hai capito? Lo salgo e lo scendo come voglio io. Io te lo appoggio. Ma perché no, chi non esiste? E vabbè, cosa cambia? Fuori tanto fa l'elevo. Non ho il tubo così, però ci vuole quello. Quanto ne ho regalato. Ma tu pensa che io, quando lavoravo lì di fronte all'ospedale dove nascono i bambini, la Fecca Bianca, come si chiama quell'ospedale? Io non so, io ho fatto i parcheggi, ho fatto un po' di lavoro, insomma, ho fatto il sottopassaggio. E c'è da una parte tanti di quei tubi in acciaio, ma forse ne avrò preso una cinquantina, lunghi 6 metri. Io te lo appoggio. Io te la spingo. Hai visto? E ti dico la verità che non me ne ho preso neanche uno. E male hai fatto. Male ho fatto perché, sai, quando hai un datore di lavoro tirchio, lurido, vergognoso anche dirlo, però è così, che tutto a me. Perché dovevi prendere una barra da 6 metri e tiragli alla schiena, la forza non ti manca, dovevi prendere e tiragli una barra da 6 metri alla schiena, così passava anche il coso di essere tirchio, capito? Dovevi prenderli quei tubi e portare un, due, tre al giorno a casa, dovevi portarteli, come minimo. Proprio diglielo a lui, guarda che sto prendendo il furgone per portarmi i tubi a casa. Non ti avrebbe detto niente. Oi, oi, oi, vai Antonello, riprendi. Io riprendo subito, esco un attimino a cercare l'altro ragazzo. Oh, e tanto lo vedo dall'ombra che ha le orecchie giganti, più giganti del furgone. Lo prendo per l'orecchio e lo porto dentro. Dai, riprendo subito. Andare. No, sono Antonello, è rientrato, sì. Sì, mi ascolti, sì. Sono con l'ascolto Mila. Quindi figurati tu. Guarda, se sei tu, io non ho capito una virgola di quello che hai detto. Sono con l'ascolto Mila. Hai capito? Troppo amplificato, troppo impazzato. Santiago 7, radio forte, però incomprensibile da quanto è amplificata e non riesco a capirti, Antonio. Adesso va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso sei basso. E adesso come va? Guarda un po'. Allora devi alzare l'amplificazione, togliere l'eco e hai anche un innesco. L'eco non c'è, è a zero l'eco. È stato meno un innesco, quindi a un certo punto non lo so. Aumenta un pochino l'amplificazione. Allora, vediamo un po'. Aspetta un secondo, facciamo una cosa. 2 minuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Abbassa. Che cosa abbasso? Se è al minimo. Quello è il microfono fa male. Allora allontanati un pochino dal mic. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Fa effetto reverbero però, Adesso a metà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Boh, Antonio, io non so cosa dirti, stavi bene la notte scorsa, come abbiamo fatto la radio, andava benissimo. Sì, ma quello è che questo invece è un altro microfono, e sono prestato bene, cioè il conto è 4.000 a un certo punto, quindi vedi tu, 1, 2, 3, mi sembra strano tanto che è così male, cazzo. A un certo punto, scusami. Non è che ti ascolto male, hai questo effetto reverbero che non ci sta a fare un cavolo, ti ripeto le parole che dici, ti impatta tutto e non va bene. Adesso guarda un po'. Ho detto che è troppo forte la radio, non parlare vicino al microfono, allontanatela appena. Ecco, adesso non ce n'è, mi sembra, vero? Giusto? Adesso ecco, non ce n'è, è quasi migliorato. Ok, vabbè, visto è. Con 4.000 questo è le... l'apparecchio che ho io. Originale. A parte il bip che te l'avrei rotto, però. Vabbè, bip, l'apparecchio non ce l'ha, quindi ce l'ho, solo mettere il microfono. Dico, voglio dire, a parte ecco, la cosa del bip, io te l'avrei rotto. Magari. Ti piacerebbe a te. Invece te lo metto, lo sai. Te lo faccio a puntiglia. Domani prendo e piazzo gli bip 4 tonni. Cosa vi faccio? Lo metto nel Kenwood, lo metto, così almeno è meglio. Così almeno non lo compra nessuno, il Kenwood, quello che ho io, il 140. Hai capito? Con quello GBV 4 tonni non lo compra nessuno. Lo piazzo così e siamo a posto. è così. Che ci vuoi va? E scommetti, cazzo, che un sacco di gente si lamenta, cazzo, no, mi stai rovinando, cazzo, il 140, tu lei, cazzo, lascialo così com'è, te lo prendo io, subito te lo prendo io, no, dico, guarda, non mi interessa niente, ormai ho deciso io, la pari che è mio, e faccio quello che voglio, metto lo GBP, L'RB4 è rimasto solamente uno, la verità, che poi non c'è nessun altro. Il problema è quello. Non c'è manco schema, figurati tu. C'è la Intec. Antone. Sì, dimmi. Siamo in braccalo. Non ho capito. Ho detto. Cosa stai, il carrello stai usando? Sì, come il 4.000 sto usando. 140 che fine ha fatto? Ce l'ho a casa, perché lo vuoi? No, come mai non seguo 140? No, non seguo 140? Di certo l'ho bruciato, se vuoi te lo faccio sentire. Aspetta. Scusa. Lo senti, sì? Il fischio? Sì. Mamma mia, va bene. Piove ragazzi, piove a dirotto. Qua non piove niente, la verità, quindi grazie a Dio siamo a posto. Sì, piove, qua sta piovendo, ha dato anche il temporale per stanotte, infatti adesso me ne stacco la verticale, ma adesso la stacco, mi lascio questa qua. Va bene così. Io mi sa invece che mi stacco io da qua e vado a incollarmi dall'altra parte. Non lo fare, ca. Non lo fare che poi prendi la forma del materasso, è un casino. No, mi voglio conservare le energie per domani, perché domani c'è un bel roba da fare se non piove. Vai che domani piove, domani hai un bel di roba da fare in radio, perché il telefono alle 6:30 domani mattina, quindi entriamo in radio. E prima lo si può fare. Se vuoi anche prima, anche alle 4. Ma c'è un po' di propagazione. No, se non piove, se piove, se c'è la giornata piovosa, io domani mattina quando mi sveglio al centro del radio sono qua davanti. E vediamo un po'. Quindi Antonello, se vuoi entrare domani mattina siamo in radio, anche Tino da domani alle 6:30 in radio. Ma tu lo sai che io sto già organizzando il pranzo per domani? Anche io, guarda, tu non ci credi, io ti mando la fotografia perché non ti dico bugie, lo sai. Nei giorni, diciamo, weekend, sabato e domenica, ci facciamo le paste in casa noi, per la colazione, e ci sono già messe a lievitare. Non ci credi? Ti mando la foto, aspetta. Sì, che ci credo, perché no? Fate bene. Marisol ne fa perché dice fanno ingrassare, quindi giustamente rispetto la sua volontà. E poi devo, è brutto dirlo, però devo controllare anche l'alimentazione del grinchellino, capito? Sì, scusami se mi se te lo dico, però quando così devi picchiare forte. Sì, ma chi ha lì? A tutti. Falle! Ti ho detto di farle! Esatto, con la bomba. Stacchi la pompa, la pompa del posto, quella 30, quella nera e picchi. Da 40, quella da 40 io uso. Vabbè, dai. Sì, adesso prendo spunto, quando non fa qualche cosa. Cosa hai detto? Io ho provato la pompa, il bastone della scoppa e il battipanni. Appunto per quello. Ah, bravo, ok. Così è. Allora, diciamo la verità, il battipanni si è rotto. Ho provato anche io, ma sì, faceva il nonno, dai. La pompa mi entrava, ma il nervo di cavallo, oh glori mi, appeso per un braccio e con l'altro pa. Lo sai cosa non ho provato io? Il filo elettrico. Papà! Che temere c'è! C'è un bel gente, Tanto per da voi. Aggiornatevi tutti e due, è pieno. Ma di cosa, Antonio? In PMR. In PMR? Sì. Eh sì, cosa c'è? E basta ascoltare, aggiornatevi, cosa ti posso dire? A un certo punto, mica ti posso dire che altri canali che sono... Anche il bar c'è, se tu guardi il bar che c'è vicino a casa mia, dove c'è in pratica la farmacia di Masala, prova a entrare lì, ci sono tre persone con lo PMR e col coso, quindi a un certo punto tutte e tre usano l'apparato, quindi a un certo punto lui è che non siamo i soli. Che va quello, andare. Beh ragazzi, mi sa che io giro pagina. Ok, io sono qua. Ora. Va bene, dai, ne approfitto a salutarvi. Che vado a nanna, dai, domani mattina è un altro giorno, si vedrà, magari c'è la possibilità di passare più ore, dai, su questa banda cittadina. Ormai io lo sai che stanno aprendo tutti, quindi siamo a posto, a meno che qualcuno non si spaventi, ma comunque sia, è tornato alla 27, diceva quello, quindi a un certo punto siamo a posto. Va bene, dai ragazzi. Ciao, buonanotte, ciao Gavino, ciao Antonello. Sentiamo domani nel caso. Ciao anche agli eventuali ascoltoni se c'è qualcuno. Ciao, ci sentiamo, da. Buonanotte a te e a tutti, non c'è problema.